24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Grecia sì all'euro, ma la Merkel frena Atene, nessun ammorbidimento. Monti al G20, occorre l'Unione Europea politica, il voto ellenico non salva i listini, Milano perde il 2,85%. Nuovi timori sulla tenuta della moneta unica. Francia, Hollande trionfa alle legislative, fuori dal Parlamento l'ex compagna Ségolène Royal. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. È durato poco l'entusiasmo delle borse europee per il voto in Grecia. Il risultato delle elezioni in Grecia, che rende più probabile la permanenza del paese nell'euro, non è bastato a rasserenare i listini nazionali del vecchio continente. In attesa dell'esito del G20, le tensioni sul debito pubblico, che hanno fatto allargare gli spread di BTP italiani e bonus spagnoli con i bund tedeschi, hanno zavorrato in primo luogo i titoli delle banche. A Piazza Affari, dove lo stacco dei dividendi di alcune big è pesato per l'1,2%, il FTSE MIB ha chiuso in calo del 2,85% e il FTSE All Share del 2,52%. Tra i titoli finanziari, Mediolanum ha perso il 5,52%, Mediobanca il 5,43%, Unicredit il 4,26% e il Monte dei Paschi di Siena il 3,43%. Continua invece il recupero di ST Microelectronics più 3,01%, mentre nel resto del listino l'ultimatum dell'ISVAP sulle irregolarità gestionali ha zavorato fondi Aria Sai, scesa del 3,16%. Paolo Paronetto da Radio Coro per Radio 24, Sole 24 Ore. Il voto ellenico è stato importante e positivo, ma non sufficiente, ha detto il premier italiano Mario Monti nel corso della riunione del G20 in corso in Messico a Los Cabos. I mercati non sono affatto convinti che basti solo il voto in Grecia per volgere in positivo la crisi dell'Eurozona. Mario Monti reagisce così alle prime notizie sugli spread alle stelle e la crisi dei mercati finanziari europei di queste ore. Risveglio difficile quello per il premier italiano qui a Los Cabos, impegnato in queste ore in una lunga serie di incontri bilaterali con i premier di molti paesi, tra cui Russia, Messico, Brasile, Australia, Colombia e Cile. Solo ieri sera Monti si era congratulato con il leader di Nuova Democrazia, vincitore delle elezioni greche, Samaras, invitando il socialista Venizelos a formare un governo di solidarietà nazionale. Ma evidentemente, dice ora Monti, i mercati hanno in mente alcuni vizi di origini dell'euro che è compito degli europei sanare. Resta il fatto, aggiunge Monti, che l'Europa non è l'unica fonte degli squilibri di tutta l'economia globale, che ha subito pesanti contraccolpi negli ultimi mesi anche dai mutui subprime americani. Si tratta, aggiunge Monti, di costruire insieme una roadmap per uscire dalla crisi dell'Eurozona. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Cabos. Al G20 è circolata una bozza conclusiva in cui i leader dell'Europa sono d'accordo nel prendere i passi necessari per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. In Grecia intanto si lavora a un esecutivo di unità nazionale, gelo da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel. Nessun ammorbidimento sugli accordi, ha detto. Ieri nel frattempo è arrivato un incarico al vincitore Antonis Samaras. Ecco un suo profilo a cura di Vittorio Darold. Samaras è il leader che in qualche modo ha un'ambiguità di fondo, perché è stato il delfino di Karamanlis, poi però ha litigato ferocemente perché ha un carattere molto forte e spigoloso, ha formato un suo partito, dopodiché è ritornato nell'Alfino Democrazia, dove ha combattuto ferocemente il memorandum, quindi questo partito che voleva tornare con le riforme. Dopodiché, quando ha capito che era inevitabile accettare queste riforme strutturali, ha deciso appunto di tornare alla carica, ora deve fare quello che prima aveva criticato. In qualche modo quindi c'è un'ambiguità di fondo. È il rappresentante di un partito che ha portato il paese in questa situazione e ora deve trovare la via per cercare di recuperarla. E c'è stato in Europa un altro importante appuntamento elettorale, quello in Francia, dove è stato un trionfo per il neopresidente François Hollande. Da Parigi, Marco Moussanet. Diciamo che il risultato è andato al di là delle più rosee attese. Le previsioni di fino a una settimana fa, fino a 10 giorni fa, parlavano di una maggioranza relativa dei socialisti alla Camera, poi si è cominciato a prevedere una maggioranza assoluta insieme agli alleati storici del Partito Socialista, i radicali di sinistra, e invece il Partito Socialista ha ottenuto da solo la maggioranza assoluta alla Camera e si trova oggi in una posizione in cui in realtà non si è mai trovato, nel senso che anche dopo il grande successo di François Mitterrand nel 1981, non avevano così tanti deputati, i socialisti alla Camera, e soprattutto non avevano il controllo del Senato che invece oggi hanno. Quindi diciamo che ci troviamo in presenza di un partito socialista che ha un potere che non ha mai avuto, oltre alla Camera e al Senato controlla 21 regioni su 22, tranne la Sardegna, 61 province su 100, 15 delle 20 principali città, insomma diciamo che ha tutti gli strumenti politici per poter muoversi, per potersi muovere liberamente. E speriamo che si muova rapidamente e soprattutto nella direzione giusta, perché a questo punto il potere e gli strumenti per farlo Hollande li ha tutti in mano. E chi esce maggiormente sconfitto da questa tornata elettorale è l'ex moglie di Hollande, perché questa tornata elettorale ha fatto fuori molti big, Marco. Sì, in realtà più a destra che a sinistra. A sinistra ci sono due sconfitte particolarmente emblematiche. Una è appunto quella dell'ex compagna di Hollande, Ségolène Royal, alla Rochelle, tra l'altro sconfitta molto nettamente, più di quanto prevedevano i sondaggi, e l'altra è quella dell'ex ministro della cultura Jack Lang, anche lui ha perso per poco, però ha perso, ed è forse la dimostrazione che effettivamente gli elettori, la gente vuole un ricambio delle facce, un ricambio della politica. Jack Lang ha 73 anni e forse, certo, ecco, la gente vuole dei giovani, vuole delle facce nuove, vuole un po' più di modernità nella gestione del paese. Chi esce sconfitta da questa tornata elettorale francese è l'ex compagna di Hollande, Ségolène Royal. L'amour, pas pour moi. Per raccontare questa storia bisogna tornare a parlare d'amore alla nuova corte di Francia, l'Eliseo. Ma la protagonista non è la signora che sentite cantare, si fa per dire naturalmente in sottofondo. Lei, Carla Bruni, in quel palazzo non vive più. Probabilmente Olivier Falorni, di nonno italiano, ce l'avrebbe fatta da solo a vincere un seggio nel suo distretto, quello della Rochelle. Ma il voto che lo ha portato in Parlamento si è caricato di molti significati, in gran parte non politici. A corrergli contro c'era un ex candidata alle primarie socialiste, ma in questo caso soprattutto Premier Dame mancata. Quella Ségolène Royal che ha dato 4 figli a François Hollande prima di separarsene a causa del di lui tradimento con Valérie Trierweiler, giornalista, ora compagna del capo dello Stato, la quale con un tweet aveva dichiarato il suo appoggio per Falorni in questa corsa a due. Falorni, che è un socialista dissidente. Un atto di gelosia? Una cattiveria per l'ex rivale? Un genuino endorsement per colui che, secondo la stampa francese, avrebbe protetto la clandestinità della relazione tra Hollande e Trierweiler per 2 anni? Di certo, visto che il marito aveva chiaramente e nitidamente appoggiato la Royal, un danno d'immagine notevole per il presidente. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un accordo bis tra Italia e Libia per la lotta all'immigrazione clandestina che ripercorre quello siglato nel 2008 dal governo Berlusconi. L'intesa è stata firmata il 3 aprile a Tripoli dal ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri e dal ministro dell'interno libico. Di fatto riconferma tutte le vecchie intese siglate al tempo di Gheddafi, compresa quella contestata anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo sui respingimenti in mare. Temiamo gravi violazioni dei diritti umani, dice Niccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, e microfono di Cristina Carpinelli. Con la Libia attuale ogni accordo in materia di immigrazione, di contratto all'immigrazione, rischia di fare molti danni. Quali sono le cose che vi allarmano di più, diciamo, leggendo questa bozza di accordo? La completa assenza di qualunque riferimento al tema dell'asilo politico. Detto in altri termini, se l'Italia collabora, come è scritto che intende collaborare, a tenere richiedenti asilo, rifugiati in Libia, collabora a violazioni dei diritti umani, questo è indubbio. Poi ci sono anche le posizioni espresse da Strasburgo che in qualche modo non vengono quasi ascoltate, leggendo insomma questo accordo. C'è una reiterazione. C'è una forte enfasi su contrasto, prevenire, impedire, fermare. Non c'è nulla che possa rassicurare gli organismi internazionali e le organizzazioni per i diritti umani riguardo ai diritti umani. C'è un riferimento generico che è del tutto ornamentale a questo punto, e come se la Libia dia una sorta di rassicurazione all'Italia che rispetterà i diritti umani e l'Italia si accontenti di questo. La Libia di oggi garanzie non può darne, è uno Stato in cui manca completamente l'applicazione della legge, in cui i migranti e richiedenti asilo e rifugiati vivono se possibile anche peggio che i tempi di Gheddafi. E quindi chiederemo che al di là se questo processo verbale poi darà seguito a un accordo vero e proprio, se questo è già considerato un accordo, il governo dovrebbe dare qualche spiegazione in più sullo stato dell'arte dei rapporti con la Libia. E ora la musica. I will always be hoping. Paul McCartney compie 70 anni. L'ex Beatle li festeggia in Toscana con la moglie. Macca ha all'attivo 60 dischi d'oro, 100 milioni di album e 100 milioni di singoli venduti da solista. Il baronetto si è esibito in occasione del giubileo di Elisabetta II e sarà una delle star dell'apertura dei Giochi Olimpici di Londra. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Pietro Lacorte in regia tecnica e da Paolo Pancena in studio. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.